Benvenuti su Monarchia Interiore, dove vengono discusse conoscenze e informazioni riguardanti la libertà e come ottenerla. Io sono Francesco Sani, il mio sito è monarchiainteriore.com. Oggi è l'11 febbraio 2026, questo è l'episodio 2. Qui con me Giulia Rodighiero. Giulia, benvenuta. Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, sono Giulia e il mio sito è giuliarodi.com. E l'altra volta mi hai fatto notare un'altra cosa riguardo al primo episodio che abbiamo fatto, lo zero, che c'è anche la carta dei tarocchi, la carta numero zero, quella del matto. Un'altra cosa interessante, ogni volta ne viene fuori qualcuna. Però sì, direi un altro simbolo che anche si collega un po' con quello che facciamo e con anche questo tipo di percorso che abbiamo intrapreso e stiamo intraprendendo. E questo un po' quello che simboleggia quella sorta di salto nel vuoto iniziale che è necessario fare, per cui forse bisogna anche effettivamente essere un po' matti, come dice anche la canzone di Seal. Bisognerà essere un po' matti se vorremmo sopravvivere. Quindi sì, l'altra volta avevamo detto che per ottenere ciò che diciamo di volere saranno necessari dei requisiti, e dato che noi non abbiamo quello che vorremmo, segue logicamente che la conoscenza di questi requisiti per ottenere ciò che vogliamo o è assente, oppure se è presente viene nella maggior parte dei casi volutamente ignorata. E su questo volevo anche sfatare, diciamo, un'idea che circola, si sente dire abbastanza spesso, specialmente in determinati ambienti, ma c'è quest'idea anche in generale che alla fine le cose si aggiustano e che il bene, tra virgolette, poi è quello che vince sempre alla fine, trionfa sempre, automaticamente, non si sa bene come faccia o perché, ma c'è quest'idea che il bene vinca sempre. E purtroppo non è così, il bene non vince sempre e le cose non si aggiustano da sole. È richiesto appunto qualcosa, ci sono questi famosi requisiti da soddisfare. E su questo è sempre collegato a questo, ma c'è un'altra idea che è quella che ci troviamo in dei cicli temporali. Nel corso della storia, la storia è formata da questi cicli temporali. Per esempio, probabilmente alcuni avranno sentito del famoso Kali Yuga, così come ce ne sono altri. Questi cicli temporali hanno determinate caratteristiche e in questo periodo, in questi periodi, deve succedere qualcosa perché è scritto, l'idea è che è più o meno predeterminato, è scritto che sia così, che è parte di una determinata visione del mondo di cui torneremo a parlare. E quindi pare proprio che, secondo questo tipo di pensiero, qualsiasi cosa uno faccia in questi periodi è più o meno inutile perché tutto è stato già scritto, determinato, in questo ciclo deve andare così oppure deve andare in qualche altro modo. E questo è assurdo, non esistono in realtà questo tipo di cicli, no, noi non siamo prigionieri di cicli temporali che funzionano, diciamo, con questi meccanismi, potremmo dire, automatici. Dipende tutto dalla volontà delle persone che vivono in un determinato periodo storico e dalla loro volontà e dalle azioni che poi si compiono. È questo che determina un esito oppure un altro. Non è perché è, diciamo, insito in questi cicli temporali e non si può far niente per cambiare le cose. E anche il famoso detto che la storia si ripete. Sì, la storia si ripete perché continuiamo a non imparare, a non apprendere le lezioni che dovremmo invece, che ci fornisce, da cui dovremmo invece imparare qualcosa. Quindi esatto. Si ripete, anzi poi peggiora sempre di più la situazione, proprio perché noi continuiamo volutamente a rimanere nell'ignoranza e a non fare quello che dovremmo per uscire da certe situazioni che per noi sono molto spiacevoli. Sì, esatto. Sì, la storia si ripete perché non impariamo le lezioni del passato. Hai detto bene. E, no, volevo aggiungere solo una cosa sui cicli. Anche se esistessero, bisogna guardarli come, per esempio, alle correnti del mare. Magari durante il ciclo negativo è un po' più difficile andare verso le energie più positive, ma si può e si deve, cioè se si vuole si può andare controcorrente. Il ciclo positivo non fa vincere il bene automaticamente se appunto la volontà manca. Non so se è un buon esempio, ma è come, a me piace sempre guardare queste cose come i cicli della luna per seminare nell'orto. Se non semini non mangi, non importa se quale ciclo della luna ci sia, devi sempre fare un po' di lavoro tu per ottenere il risultato che vuoi. Se non si semina non si raccoglie. Esatto, sì. E poi volevo appunto aggiungere un'altra cosa che si collega un po' al rifiuto di apprendere i requisiti necessari per evolvere la nostra situazione. Questo rifiuto proviene anche da uno stadio di consapevolezza basso e appunto dalla condizione umana che è in uno stadio di ignoranza nell'insieme. E come abbiamo anche spiegato, la soluzione è appunto l'apprendimento. La soluzione è la vera educazione. Credo che sia interessante far notare che la parola educazione viene appunto da educare, che etimologicamente ha il significato di guidare fuori, tirare fuori. Pensato fosse un po' interessante appunto far notare che il processo di vera educazione è un processo di trasformazione dall'oscurità alla luce, perché porta fuori dalla buia ignoranza alla conoscenza, che possiamo equiparare alla luce, e quindi è un processo di illuminazione, perché è praticamente il processo che ognuno di noi deve fare per elevare la propria consapevolezza a uno stadio più elevato, dove possiamo usare meglio la nostra psiche, la nostra mente, le nostre abilità nel mondo reale, per appunto manifestare le cose che diciamo di volere. Senza la conoscenza non possiamo manifestare cose tipo libertà, verità o tutto il resto che diciamo di volere. Sì, quella sarà un'impossibilità. Sì. Sarà impossibile. Sì, la conoscenza, che anche nelle tradizioni del passato, in molte di queste è sempre stata equiparata alla luce, l'ignoranza al buio, come hai detto, trova spesso questa corrispondenza. E appunto la soluzione a tutto questo è la conoscenza e l'apprendimento della conoscenza, che sarà il tema principale di cui discuteremo oggi. Sì, il tema di oggi sono gli ostacoli all'apprendimento, che sono ostacoli che appunto bloccano letteralmente le persone dall'iniziare questo percorso. E l'apprendimento stesso, perché? E l'apprendimento stesso, sì. Quale deve essere la posizione migliore o la condizione migliore in cui essere per poter apprendere meglio e di più. E quindi diciamo la nostra propensione all'apprendimento, la nostra capacità di ricevere insegnamenti. Giusto, sì. Penso che possiamo parlare adesso qual è la posizione migliore per imparare. Ok, quindi la capacità di apprendere di un individuo dipende estremamente dall'apertura mentale o dalla mente chiusa della persona che riceve insegnamenti. Si è in una posizione di bassa capacità di apprendimento se si è troppo ignoranti o troppo scettici o anche troppo cinici, ma allo stesso tempo, anche se si è troppo ingenui o creduloni, anche lì non si ha una bassa capacità di apprendimento. La migliore posizione è, potremmo dire, che è un buon equilibrio tra l'essere insegnanti e studenti, se si vuol dire. Praticamente se si ricevono informazioni con un sano scetticismo, ma allo stesso tempo con una buona apertura mentale, che se sentiamo qualcosa che è in contrasto con informazioni che avevamo appreso in precedenza, non ce la fa immediatamente scattare, ma siamo in una posizione che ok, la possiamo prendere in considerazione per poi magari fare più ricerche e vedere cosa di vero c'è in queste informazioni. Allora lì quella è la migliore posizione per imparare. Praticamente potete immaginare una curva a campana, dove da una parte c'è l'arroganza, dall'altra parte l'ingenuità e l'apice è appunto a metà tra l'essere insegnante e studente allo stesso tempo praticamente. Anche noi qui non pretendiamo di essere solo insegnanti, stiamo sempre imparando e anche non vogliamo che prendiate le informazioni di cui parleremo così, non credeteci ciecamente alle cose che vi diremo, vogliamo che le analizziate e ricercate per conto vostro. Io, secondo me, sono tutte cose che possono essere provate indipendentemente. L'ultima cosa che voglio aggiungere è che tutti abbiamo dentro di noi la capacità intuitiva di discernere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma questa capacità deve essere anche allenata. Ritorno a dove sono partita, si allena provando a stare in questa posizione di sano scetticismo e apertura mentale e anche ad assumersi la responsabilità di ricercare. Di ricercare per conto proprio poi le informazioni che verranno discusse. Come hai detto, si può arrivare a una conclusione. Queste sono cose che possono essere provate. Queste è quello di cui parleremo. Si parlerà più avanti. Infatti hai già accennavi alla nostra capacità che, a meno che di non avere una particolare mentalità oppure problemi psichici, essere quindi in una condizione, per esempio, di psicopatia. Giusto, sì. Più avanti ne riparleremo sicuramente, ma in effetti c'è una certa capacità di determinare, hai detto, il giusto e sbagliato, e qui si apre un altro grande argomento che ovviamente tratteremo, perché sarà uno dei temi centrali del programma, di sicuro. Più conoscenze si acquisiscono, più la nostra capacità di discernimento migliorerà. Quindi anche questa non è una cosa, ne parleremo anche oggi, non è una cosa infallibile, per così dire. Richiede anche questa delle conoscenze che dobbiamo acquisire. E vediamo poi come le due posizioni, una delle due posizioni che sono le peggiori per poter apprendere, quella della totale ingenuità e quella dell'arroganza, abbiamo detto. Io voglio dire una cosa che sull'arroganza, che non è sempre negativa, infatti io piuttosto la chiamerei presunzione, forse quella più l'aspetto più negativo, se vogliamo, rispetto a quello che abbiamo parlato. L'altra posizione peggiore per poter apprendere, perché in realtà se sappiamo effettivamente qualcosa, se conosciamo effettivamente qualcosa, può darsi che ci sia anche una certa arroganza, vera o presunta o percepita dagli altri. A volte infatti anche magari te lo dicono pure. Però se questa arroganza arroganza percepita è supportata effettivamente dalla verità, non è una condizione negativa. E quindi volevo precisare anche questo. È vero. Anche questo, ecco. Sì. Sì, parliamo di arroganza in senso negativo quando si crede di sapere. È più, diciamo, una presunzione, probabilmente. Sì, sì. E parlando di posizioni peggiori in cui trovarsi per apprendere qualcosa, ci sono anche molti ostacoli all'apprendimento. Alcuni li abbiamo già visti, ne abbiamo già parlato poco fa. La completa chiusura mentale dovuta al rigido scetticismo che non ammette nessun tipo di novità rispetto alle nostre idee preconcette. Anche questo è un problema, e anche di questo ne riparleremo in seguito, perché fanno questi ostacoli all'apprendimento sono molto spesso delle condizioni mentali che si hanno quando ci troviamo in determinate mentalità o in determinati squilibri, che vedremo negli episodi successivi. L'altra è l'ingenuità completa. E quindi il fidarsi ciecamente e accettare qualunque cosa ci venga detta senza alcun dubbio, senza, diciamo, mettere niente in questione. Quindi ci sono questi due opposti, c'è la completa apertura mentale, totale, l'ingenuo totale, e lo scettico scettico a prescindere, quindi la completa chiusura mentale. E tra le due direi che lo scetticismo ha qualcosa di più positivo, meglio essere più scettici ovviamente rispetto a essere completamente ingenui, a non avere nessun filtro e nessuna barriera riguardo le cose che ci vengono dette, riguardo le informazioni che assorbiamo. Quindi il fatto di non avere mai dubbio è una condizione molto problematica, proprio perché poi dopo noi tendiamo ad accettare di tutto ed attenzione, perché spesso anche chi dice di essere, chi si professa scettico, rigidamente scettico su tutto, in realtà è scettico finché magari qualcosa non gli viene detta da qualcuno che lui riconosce come autorità. Come un'autorità di chi, esatto. E allora sì. A quel punto lo scettico diventa anche lì un vero ingenuo, perché poi le due cose a un certo punto si ricongiungono. E ci sono anche altre condizioni, diciamo, che ci ostacolano dall'apprendere. Ovviamente una riguarda alcuni pregiudizi che possiamo avere, per esempio i pregiudizi di conferma, cioè quando ricerchiamo qualcosa e magari tendiamo a trovare, diciamo, tra virgolette, delle prove, anche se poi queste magari sono state confutate o non sono vere prove, però tendiamo appunto a confermare, sempre a cercare qualcosa che confermi la nostra ipotesi originaria, la nostra credenza che riteniamo valida. Sì, e a far finta che gli argomenti che vanno contro non li prendiamo neanche in considerazione. È un modo di fare ricerca fallace, dove appunto si prende in considerazione solo quelle cose che confermano la nostra tesi, e a lasciare andare tutte le altre, escludere tutte le altre. C'è anche questo termine in inglese, credo, il cherry picking. Cherry picking, esatto, sì. È come sarebbe letteralmente cogliere le ciliegie, perché andiamo a prendere, come hai detto, quello che ci conferma, quello che ci piace, piuttosto che quello che in realtà è oggettivo, è vero, in modo poi, e non usciamo più poi da... Rimaniamo chiusi, la nostra capacità di apprendere non si evolve, la nostra mentalità non si evolve. E la nostra mente rimane, diciamo, non rimane in quella sana apertura mentale di cui abbiamo parlato prima, necessaria per essere nella migliore posizione per poter apprendere. Degli altri pregiudizi che sono specialmente oggi, direi, specialmente in questo periodo storico, li vediamo molto, sono i pregiudizi emotivi, che sono molto, molto insidiosi, molto pericolosi. E ne vediamo anche poi le conseguenze. Mi ricordo quando abbiamo parlato in programmi passati della cancel culture, la volontà di cancellare, di voler eliminare completamente o censurare quello che non ci piace, quello che non ci fa sentire bene. Questo fa parte viene sfruttato utilizzando i pregiudizi emotivi delle masse, delle persone. Quindi il pregiudizio emotivo sarebbe il giudicare la veridicità di qualcosa sulla base di come ci fa sentire. Ed è una forma di controllo mentale, è un controllo mentale emotivo, che è sempre più diffuso. Sì. Sì, sì, in questo periodo lo vediamo usare tantissimo, come hai detto. Se guardiamo la politica, entrambe le parti... Ma anche più di due, perché poi ce ne sono... Sì, è vero. Sì, sì. Stavo probabilmente pensando di più all'America, in questo momento, democratici e repubblicani. Ma sì, sì, sì, no. Ce ne sono, sì, sì, come, infiniti. Esatto, è uno dei metodi per controllare le masse della popolazione, per controllarle anche bene per mandare, diciamo, la società nella direzione in cui si vuole, far accettare le cose che si vogliono. È un controllo mentale ed è sempre più diffuso e dominante quello sulla manipolazione delle emozioni, che viene anche usata per dissuadere dal ricercare certe cose e dall'esaminare certe cose e dall'acquisire determinate conoscenze. Sì. E anche di questo poi su questo ci torneremo anche. Sì, sì, di sicuro sì. Sì, no, volevo solo aggiungere e a lasciare, ad abbandonare i principi che magari appunto in certi ambienti dicono di avere, ma poi quando c'è, poi si fa leva sull'emotività e allora il principio viene abbandonato in nome del... Adesso sì, detto così un po' in generale, senza esempi, non ha molto senso, ma sì. Sì, no, beh, pensa solo a, sì, sì, diciamo, tutti i piani che vogliono farci accettare, per cui usano, manipolano, ci manipolano emotivamente. E penso al, se il piano, diciamo, cosiddetto ambientalista del Green, oppure quando si vuole proibire o bandire qualcosa, tipo qualche oggetto, come vediamo... Sì. Attualmente pure qui si fa leva sulle emozioni, come abbiamo visto anche come hanno fatto leva sulla paura, per esempio, qualche anno fa. Sì, qualche anno fa, giusto, l'hanno andata bene. Una certa situazione che si è verificata e anche lì, esatto, un totale controllo mentale e la manipolazione delle emozioni, una di quelle forse la più forte e quella che sarà trattata qui anche nel futuro, nel corso di questo programma, sicuramente la paura. Perché paura, sì. Mi pare l'ho detto anche l'episodio scorso, ma è quella condizione da cui poi se ne sviluppano tutta una serie di altre che ci portano poi verso la rovina. E poi abbiamo detto anche, parlato dell'apprendimento, e l'abbiamo un po' paragonato a una curva a campana che parte dalla posizione peggiore per imparare, arriva in alto a quella migliore e poi dopo ridiscende un'altra volta in un'altra condizione peggiore. Però c'è anche un'altra sorta di condizione che può essere spiegata anche qui con graficamente, diciamo, che è l'idea di conoscere qualcosa o di conoscerla anche molto bene quando in realtà ne sappiamo pochissimo o quasi nulla. Quindi c'è anche quella sorta di, oltre alla curva della propensione all'apprendimento, c'è anche la curva della presunzione di conoscenza dovuta che aumenta man mano che aumenta la nostra stupidità, se vogliamo. Sì. Magari questo è dovuto per tutte le informazioni che vengono propagandate nei media, nei vari media, eccetera. Una persona si convince di saper tutto su un argomento quando in realtà non ha speso neanche 5 minuti. Ammetto, anch'io ero ero all'apice di questa condizione, soprattutto se si, per esempio, per l'agenda green, solo per fare un esempio. E poi appena ho iniziato quando mi sono sforzata a fatica di iniziare a guardare, ho detto, ah, non sapevo tutte queste altre cose. Quindi sì, forse bisogna anche dire che bisogna anche essere equipaggiati con una buona dose di umiltà, oltre che aver dubbi, essere umili al pensare che forse non si sa tutto su qualcosa e a voler ricercare di più, ma vedere se dove effettivamente è la verità. Sì, ed è in effetti difficile, può essere difficilissimo e per molti sarà impossibile, da quello che si vede, come penso che sia, perché appunto questo è dovuto a uscire dai pregiudizi di conferma e da pregiudizi emotivi non è affatto semplice. Sì, una cosa che si collega a quello che dicevamo del fatto di pensare di sapere quando si sa poco o niente, cioè più meno sappiamo più pensiamo di conoscere qualcosa, credo sia collegato al famigerato effetto Dunning-Kruger che è quello utilizzato per solitamente quando spesso si sente gente che non è d'accordo e ha opinioni discordanti, si sente ognuno dare del Dunning-Kruger all'altro. Mi ricordo che veniva dato anche a noi, o meglio a chi la pensava come noi durante il Covid, poi dopo siamo stati vendicati, ma non è che questo ha cambiato le cose, purtroppo. Magari no, in futuro no. Verremo vendicati ancora. Sì. Però credo chissà. Che sia troppo, ancora troppo presto per le persone. Per prendere in cioè è un buon esempio di come certe informazioni vengono completamente ignorate, anche se sono lì fuori. E... Sì, e sono venute fuori perché sono venute fuori a danno, sì, fatto, come spesso accade. a danno fatto e a operazione completata, allora poi dopo piano piano cominciano a venire fuori anche determinate verità che prima era assolutamente anatema anche solo prendere in considerazione. E appunto gli eventi della storia recentissima sono un grande esempio di questo, ma ce ne sono stati anche altri. E un'altra cosa è di cui voglio parlare come ostacolo all'apprendimento, perché di questo ne ho avuto anche esperienza, e questo è quello che chiamo effetto novità. Cioè la prima volta che veniamo in contatto con qualcosa che magari ci fa esplodere la mente, per così dire, e ne siamo completamente... ci avvince, ci interessa, occupa tutto il nostro tempo, occupa tutta la nostra mente, e passato poi un certo periodo di tempo, sì, di durata più o meno variabile, poi dopo, una volta visto che effettivamente perdiamo interesse, si perde interesse, anche se sono informazioni importanti, e infatti questo lo vedo succedere con quello, per esempio, di cui parliamo e di cui parleremo. L'ho visto succedere diverse volte. Una volta esaurito questo effetto novità, cioè effetto di cosa nuova, per questo anche ci tengo all'inizio, dico che in realtà sì, per qualcuno può darsi che siano cose nuove, ma non è niente di nuovo. Infatti poi dopo, se approfondiamo, se andiamo in profondità, vediamo appunto che sono conoscenze che sono state... in qualche modo si è sempre tentato di divulgare nella storia e che ci sono sempre state. Però ecco, una volta il rischio di essere di partire con tutto l'entusiasmo la prima volta che sentiamo qualcosa del genere, che sicuramente è positivo avere entusiasmo, avere questo entusiasmo iniziale, però poi dobbiamo stare attenti e capire appunto che è un percorso lungo e che non dà soddisfazioni, quelle soddisfazioni immediate che di solito la gente cerca. Anche per questo che nell'episodio che abbiamo fatto all'inizio, quando abbiamo cominciato, ho dato, diciamo, quella serie di avvertenze, proprio perché avevo in mente questo effetto novità, questo entusiasmo iniziale che prende e poi dopo un po' va a scemare sempre di più, per cui magari anche non prendiamo in realtà sul serio. Può essere indice del fatto che non abbiamo veramente compreso l'importanza di ciò di cui si parla e non la prendiamo veramente sul serio e non ci vogliamo veramente applicare nel suo studio. Sì, mi sembra appropriato io qua ricordare, cioè la famosa citazione attribuita a Buddha: si possono fare solo due errori nella via verso la verità, non cominciare o non andare fino in fondo. E oggi abbiamo visto appunto cose che possono far non cominciare, e quello che appena detto tu dell'effetto novità è uno dei motivi per cui non si va poi fino in fondo, si abbandona la strada e si inizia, ne comincia un'altra. Sì, si passa alla prossima, diciamo, sì, alla prossima cosa che cattura la nostra attenzione, sì, sul momento. Ah, e parlando di citazioni, mi hai fatto venire in mente, parlando della posizione migliore per poter apprendere, quello che una citazione che viene falsamente attribuita ad Aristotele, ma che non è sua, comunque è pur sempre accurata, veritiera, e dice che bisogna essere in grado di, ora lo dico un po' parafrasandola, dice bisogna essere in grado di prendere in considerazione un'idea senza necessariamente poi accettarla. Quindi anche questo, sì, anche questo è importante. Esemplifica, diciamo, la posizione migliore per poter apprendere, anche se poi dopo non necessariamente magari saremo d'accordo con qualsiasi cosa che ci venga, che ci viene detta. Ma un altro, e questa è più che altro una credenza, diciamo, che costituisce un ostacolo a molte cose, tra cui l'apprendimento, e penso che però ne parleremo. Anche di questa ne riparleremo, ci sarà occasione di riparlare molte altre volte, che sono le credenze chiamate New Age, anche se venivano chiamate così più che altro anni fa, soprattutto credo tra gli anni 70 e gli anni 90. E adesso infatti non c'è più nessun New Age. Se senti le persone, nessuno è New Age. Poi dopo senti un po' ci parli, senti un po' o ascolti quello che dicono, e dalla retorica capisci che in realtà lo sono, che hanno sempre, che quelle credenze sono sempre in auge, e moltissimi ci credono e hanno fatto presa su una vasta parte, specialmente tra gli alternativi, o tra chi cerca informazioni alternative o movimenti o comunità alternative, che è anche questa una tattica di cui parleremo, quella di una tattica, diciamo, per sviare un po', per confondere un po' le acque, è quella di cambiare nome a determinate idee o a determinati movimenti e simili, cambiare nome per magari quando si comincia a venire smascherati o si viene smascherati, ed è una tattica per poi continuare a propagare quello che si sta propagando, magari però sviando l'attenzione perché non ci chiamiamo, perché abbiamo cambiato nome. Però sì, consiste, il movimento New Age consiste, l'ideologia o diciamo il pensiero New Age, che si chiama New Age, nuovo, letteralmente nuova era, ma non c'è niente di nuovo nemmeno lì, e consiste molto nell'ignorare, fondamentalmente. Si va dall'ignorare il negativo perché altrimenti gli diamo potere, all'accettare qualsiasi cosa praticamente ci succeda come appunto preordinata o parte di un disegno, un qualche altro disegno su cui non abbiamo alcun controllo, e l'idea di non prendersela mai, di non arrabbiarsi mai, anche legittima, anche quando ci sarebbe bisogno di farlo, al fatto che tutte le opinioni o tutti i punti di vista sono validi, e che non c'è veramente un qualcosa che sia giusto, qualcosa che sia sbagliato, oppure valido o non valido, vero e non vero, quindi altro motivo per cui questa ideologia è particolarmente pericolosa, perché nega anche che ci sia una verità oggettiva. E qui ho già anticipato qualcosa, ma era doveroso. E poi perché è un ostacolo all'apprendimento, anche in particolare perché nega che l'importanza di conoscere, che non è veramente, non bisogna veramente conoscere niente, perché quello che abbiamo nella testa, oppure solo la nostra intuizione presa isolatamente, diciamo, per se stessa, è sufficiente a farci conoscere tutto quello di cui abbiamo bisogno. È veramente l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, che alla fine non sbaglia, perché è la nostra intuizione, quindi è sempre in qualche modo valida. Però ecco, sì, appunto c'è il fatto di non che acquisire conoscenza non è importante, e che non si può veramente conoscere niente. E questo, come dicevo, non è niente di nuovo. L'idea New Age non è nient'altro che il postmodernismo camuffato e, diciamo, rimpacchettato in un nuovo formato, magari abbellito da alcune idee, religioni o filosofie orientali, e dallo yoga e dalla meditazione e questo genere di cose. Però di fatto si tratta di una riproposizione del pensiero postmoderno, per cui non esiste verità, non esiste una conoscenza oggettiva, non si può conoscere quindi la verità su qualcosa, ogni pensiero che abbiamo è valido. E quindi sì, sono idee che sono ancora molto diffuse, veramente in tutti gli ambiti della società, e sono anche particolarmente insidiose, pericolose e subdole. Poi hanno la capacità di infiltrazione in moltissimi ambiti, e appunto sentendo parlare anche molti esponenti di questa, diciamo, di questo ambiente, per così che abbiamo definito alternativo, si vede quanta presa abbia questa ideologia. C'è molto da dire su questo tipo di ideologie, ma non vi preoccupate, che ci sarà occasione. Ci torneremo. Sì. E anche, non è solo l'ideologia New Age che limita la percezione e il pensiero, ma tutti i sistemi di credenze rigidi, tutte le religioni istituzionali, i partiti politici, lo scientismo, sono tutte forme che li offenderemo tutti, ecco. Sì, probabilmente sì. Se uno sottoscrive a un qualsiasi sistema una qualsiasi religione, un qualsiasi sistema appunto rigido si offenderà prima o poi da quello che diremo. Sì, e sono argomenti vasti, quindi ci dovremo per forza tornare sopra. Sì. Ma sì, ecco, le rigide credenze, il dogma è sicuramente un altro ostacolo a poter apprendere, perché è una credenza rigida, è un pensiero che non può essere messo in discussione anche se è errato. Quindi viene da sé che poi dopo questo ci limita nella nostra evoluzione fondamentalmente. Sì, chiaramente non tutte le credenze sono dannose, si può anche credere in qualcosa anche se è assurdo o non comprovato, ma diciamo rimane innocuo e non crea un danno, non crea problemi. Però ecco, sì, sono quello è ciò che non può essere messo in discussione perché magari sostenuto o propagandato da un'autorità che riteniamo praticamente infallibile, ecco lì sì che abbiamo decisamente un problema e abbiamo decisamente un ostacolo alla nostra evoluzione. E che dire poi di un altro pericoloso fenomeno che è sempre più in aumento in varie forme, che è la censura. La censura è chiaramente un ostacolo all'apprendimento, proprio perché agisce proprio dal limitatore diretto per quanto riguarda la diffusione di informazioni. E oggi ci sono anche modi più sottili, più soft di farla, specialmente di metterla in pratica, specialmente con le reti sociali, con il famoso shadow ban, per cui non si viene completamente cancellati, però si limita la capacità di pubblicazione o di diffusione di materiale online. Non si viene cancellati, ma non si viene visti. Sì, quindi è un altro limitatore, è un altro ostacolo, un altro mezzo per fermare conoscenze che non piacciono al potere. Ed è anche una situazione inquietante, pericolosa e dai risvolti imprevedibili, o meglio prevedibili, nel senso che sappiamo una società che adotta la censura e sappiamo poi dopo la direzione che sta prendendo, ma d'altra parte non è una sorpresa, vivendo in stato di schiavitù, in stato di oppressione, è solo questione di tempo di solito perché la censura non venga applicata in maniera palese e in maniera diffusa. E adesso lo vediamo anche nei paesi che si definiscono liberi, che si sono sempre definiti liberi, tra molte virgolette, in realtà no, ma questo era quello che ci volevano far credere, che vogliono far credere alla gente, e adesso si può anche venire arrestati per delle opinioni. Quindi ecco, questi direi che sono tra i principali ostacoli a poter imparare, ad apprendere informazioni importanti. Molti coincidono con vari metodi anche di manipolazione, che saranno trattati più avanti. E un'altra cosa importante da dire sull'apprendimento e la capacità di apprendere è il fatto che si tratta di affinare il nostro pensiero critico, che è fondamentale avere, che è quello che sta fondamentalmente ci manca. Sì, ci manca anche perché non viene più insegnato praticamente. Sì, esatto, e non viene più, c'è interesse perché non venga sviluppato nelle cosiddette istituzioni educative, che in realtà nella maggior parte dei casi quello che fanno è indottrinare, quindi sono istituzioni di indottrinamento, ma c'è interesse proprio perché questo tipo di pensare criticamente, avere questa capacità e avere la capacità di educarsi veramente, ecco, c'è interesse a estirpare il pensiero critico e a estirpare alla fine l'intelligenza, la vera intelligenza. E questo viene fatto mantenendo le persone in stato di ignoranza e utilizzando molto anche il controllo mentale emotivo e il controllo mentale in generale, quello di cui abbiamo parlato. È così che teniamo la gente lontana dalle cose importanti. Nell'episodio scorso dicevo che le cose che diciamo di volere, spesso nessuna di queste cose spesso è veramente importante, e c'è una ragione. Tutto questo ci è stato instillato, siamo stati indottrinati in questo modo e poi non ne vogliamo più uscire. Sì, purtroppo sì. Siamo in una nuova... In realtà spesso tutti tendono a considerare epoche del passato come epoche oscure, di grande ignoranza, ma in realtà ci stiamo ritornando, ci siamo già. Questa è un'altra epoca fortemente dogmatica, proprio perché non c'è quella, non è sviluppato quel pensiero critico dato da quella sufficiente apertura mentale e quel sano scetticismo di cui parlavamo prima. Sì, vorrei notare anche che oltre a disincentivare il pensiero critico, perché appunto nelle scuole non ti insegnano più come imparare, ma solo cosa imparare, volevo anche dire che un'altra cosa che è disincentivata è l'autodidattismo. Ti guardano male se fai ricerche per conto tuo e non sei parte di un'istituzione, non so, se non sei un ricercatore, un... Sì, se non sei parte, sì, dell'Accademia, tra le altre cose. Sì, ecco, bravo. L'Accademia è quello che volevo, la parola che mi mancava. Se non sei, sì, in un ambiente accademico, ma studi per conto tuo, allora non, quello che impari non vale niente, tra virgolette. Quando invece... Molto spesso in realtà c'è del valore, esatto. Non sempre, ovviamente, sempre, no, ma... Ma spesso sì, sì, l'idea di non far parte dell'ufficialità che ti penalizza in automatico. Anche questa è un'altra forma di controllo mentale, un'altra forma di ostacolo all'apprendimento. Non per dire che tutto quello che viene detto al di fuori dell'accademia sia oro colato. No, assolutamente no. E il resto sia tutto falso, quindi... E credo che una parte... Che molto del fatto di voler permanere in stato di ignoranza e di non voler apprendere, di voler fermarsi, diciamo, nel proprio apprendimento, o magari piantare la tenda, come alcuni dicono, e non arrivare fino alla vetta, è anche l'incapacità di ammettere di aver sbagliato. Quando parlavi del... Sì, di un certo lavoro introspettivo, sì, che è necessario fare, e un ostacolo interno che è necessario superare spesso è l'incapacità di ammettere di aver sbagliato. Sì, no, hai detto bene, l'ammettere di aver sbagliato è una capacità molto importante da avere, sì. E anche questo è molto difficile. È una cosa molto difficile, non è assolutamente facile farlo, ma una volta fatto è anche liberatorio, in un certo senso. Sì, è vero. E fa parte di quella condizione... che è un altro degli ostacoli, che è lo stato di diniego. Ti fa permanere in uno stato di diniego. Anche questo quante volte lo vediamo, è abbastanza evidente nella società, si vede con le persone. Lo stato di diniego anche poi a livello generale, come dicevamo anche all'inizio, quando abbiamo cominciato con il podcast, è che c'è un diniego, per esempio, della condizione in cui ci troviamo. Quella condizione di schiavitù in cui siamo viene spesso negata, come anche altre situazioni evidenti vengono spesso negate, la negazione dell'evidenza. Ecco, fa tutto parte di questa condizione psicologica, questo stato mentale, dal quale è di importanza cruciale uscire, perché è il primo passo per la risoluzione un problema. Per poter risolvere un problema, il primo passo è riconoscere che c'è un problema, quindi uscire dallo stato di diniego, diventare consapevoli che abbiamo un problema, o che ci troviamo in una determinata condizione. E qui parlavamo delle idee New Age, ma qui la paura del, diciamo, il respingimento di qualsiasi informazione ci faccia stare male o che riteniamo negativa, anche questo è fondamentale superarlo come primo gradino per poter risolvere il nostro problema. E poi dopo, tramite la conoscenza, dovremo arrivare alla causa principale, il fattore causale principale del problema, e non solamente a concentrarci sui suoi sintomi, perché occupandoci solo dei sintomi non risolveremo mai la nostra condizione. E infatti si vede, parlando proprio della condizione in cui ci troviamo, si vedono molti che, per così dire, colpiscono i rami o le foglie, ma nessuno arriva alla radice. Sì. E quindi anche qui, ripeto, è fondamentale conoscere le cause come abbiamo già detto e come diremo ancora, quello è fondamentale, arrivare alla causa. In questo modo poi potremo intraprendere le azioni che saranno necessarie per porre rimedio, possibilmente per risolvere la nostra situazione. Ecco, un'altra cosa che va anche oltre gli ostacoli all'apprendimento, ma che è ovviamente anche collegata a questi, è un'altra condizione che spesso troviamo, che spesso si verifica dentro la nostra mente. Questa condizione è uno stato di dissonanza cognitiva, come viene chiamato. È praticamente di fatto di credere a due idee anche in contrasto tra loro contemporaneamente. Quindi nello stesso tempo abbiamo due credenze o idee che, pur essendo magari anche l'una il contrario dell'altra in alcuni casi, però in qualche modo, con un qualche meccanismo mentale, riteniamo valide entrambe nello stesso tempo, e questo ci porta sempre a essere in una condizione di squilibrio, che ovviamente non ci fa progredire nella nostra consapevolezza, che ci ostacola, quindi che è un altro nostro grande ostacolo che abbiamo. E anche qui ritorna al primo passo della risoluzione dei problemi, cioè essere consapevoli che abbiamo questa dissonanza dentro di noi e risolverla, appunto, acquisendo conoscenze corrette. E anche riconoscendo che si era sbagliati in precedenza, riconoscere che si credeva a cose sbagliate prima, accettare la situazione. Sì, rimediare a questo stato di cose. Sì, forse una cosa che vorrei aggiungere sulla dissonanza cognitiva è che è uno stato che causa molto disagio ed è, secondo me, oggettivamente difficile uscire da questo stato. Richiede, appunto, sì, come hai detto, sì, è un'altra cosa che richiede lavoro personale. E come sempre, viene rimediata dalla conoscenza corretta, che poi pone rimedio a questa condizione. Anche su questo sono sicura che torneremo in futuro. Sì, certo, credo proprio di sì, anche perché molte di queste idee che poi possono portare a causare, ad esempio, dissonanza cognitiva, saranno, insomma, le vedremo, saranno trattate, perché noi molto spesso abbiamo anche delle visioni del mondo che sono dettate da delle presupposizioni, da nostre presupposizioni che sono anche subconsce in alcuni casi, però spesso queste presupposizioni sono spesso idee anche che si autocontraddicono, per questo che poi possono portare anche alla dissonanza cognitiva. Abbiamo due idee allo stesso tempo che magari poi sono anche autocontraddicenti. E parleremo ovviamente delle varie condizioni mentali e squilibri anche mentali, e come anche porvi poi anche rimedio. Già praticamente un po' l'abbiamo visto, abbiamo già cominciato a vederlo. Bene, abbiamo trattato molti punti importanti oggi, molti di questi li rivedremo, collegati anche ad altre questioni, ad altri punti poi che tratteremo negli episodi successivi e in futuro. Quindi per oggi direi che possiamo concludere. Saluto a tutti, saluto anche te Giulia, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.